Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Pochi sanno che l'automobile elettrica è stata inventata prima di quella contemporanea, che come sapete è azionata da un motore a combustione interna, a benzina o a diesel. Il fatto curioso è che il motore a combustione interna non vinse grazie alla sua superiorità tecnologica, ma vinse proprio grazie alla benzina. La benzina è un liquido dotato di una densità energetica eccezionale. Pensate che un chilo di benzina contiene 15 volte l'energia di un chilo di tritolo. E quindi pensate anche a qual è la differenza tra portarsi dietro, per esempio, qualche quintale di batterie oppure qualche decina di chilogrammi di un carburante liquido che per di più rende anche più facile e rapido il rifornimento. Insomma, furono le batterie a tradire l'auto elettrica e ancora oggi ne costituiscono il limite principale. Però passi avanti ce ne sono. Un segmento di utilitarie elettriche pensate per circolare in città con circa 100-150 km di autonomia sta infatti per arrivare sul mercato. In Italia addirittura si prevede che nel 2020 saranno da 1 a 4 milioni i veicoli elettrici. Un bel vantaggio per la qualità dell'aria, ma c'è un'altra rivoluzione che l'auto elettrica introdurrà, meno appariscente ma forse più fondamentale della possibilità di circolare a emissioni zero. Parliamo della comparsa, per la prima volta da quando l'uomo fa uso dell'elettricità, della capacità di immagazzinare ingenti quantitativi di energia elettrica, una specie di gigantesca batteria distribuita. Sentiamo. Fino ad oggi l'energia elettrica è sempre stata un'energia volatile. Deve essere consumata nello stesso istante in cui viene prodotta. Ma milioni di automobili elettriche connesse alla rete cambierebbero radicalmente questo scenario, aprendo a sviluppi sorprendenti. Milioni di auto elettriche potrebbero, per esempio, fungere da serbatoio di compensazione, caricandosi quando l'energia elettrica costa meno ed è più abbondante, per esempio di notte, e cedendo elettricità alla rete durante le ore di picco. La rete elettrica è un organismo sempre più complesso e sta evolvendo rapidamente. Oggi deve essere in grado di gestire i contributi di tantissimi piccoli produttori, come gli impianti fotovoltaici domestici. Un domani, alla prerogativa di far circolare in modo intelligente l'energia elettrica, si aggiungerà quella di immagazzinarla. Infatti, con fonti imprevedibili come fotovoltaico ed eolico, non sempre la disponibilità e la richiesta di energia coincidono. Un limite allo sviluppo di queste fonti che solo la capacità di immagazzinare energia può superare. Torniamo in studio e diamo il benvenuto alla dottoressa Silvia Bodoardo, ricercatrice del Politecnico di Torino che si occupa proprio dello sviluppo di batterie per auto elettriche. Buonasera Bodoardo. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque Bodoardo, quando parliamo di batterie top parliamo delle batterie al litio, che sono quelle che alimentano sia i cellulari che le prossime vetture auto elettriche. Poco fa abbiamo parlato proprio della prima auto elettrica, quella di metà 800. Quanta strada si è fatta da allora nel campo delle batterie? Beh, ovviamente di strada se n'è fatta tanta, per cui dalle batterie al piombo dei primi tempi si è passato, come abbiamo detto, alle batterie al litio, che sono scelte, sono migliori perché sono molto più leggere. Per capirsi, l'energia che riescono a dare per chilogrammo è 5 volte quella delle batterie al piombo. Non solo, anche la capacità di caricarsi e scaricarsi è maggiore, fanno molti più cicli di carica e scarica, ma sono anche più veloci nella ricarica. Se io devo ricaricarmi l'autoveicolo anche magari in poco tempo, per esempio in una pausa supermercato, la batteria al litio lo permette, la batteria al piombo per esempio no. Ecco, oggi però non possiamo dire, o forse sì, che le batterie al litio sono la risposta definitiva alla mobilità elettrica. Sicuramente sono un grosso passo avanti, forse non ancora quella definitiva per una questione di maturità. I 150 anni della storia delle batterie al piombo non è paragonabile con le decine d'anni delle batterie al litio. La ricerca sta andando velocemente molto avanti, per cui stanno migliorando le attuali batterie al litio e nel futuro ci saranno grosse altre prospettive. Ecco, quindi insomma ci sono prospettive aperte di tecnologie per batterie nettamente più potenti, con un salto qualitativo forte. Beh, assolutamente sì, da un punto di vista della ricerca si stanno studiando dei nuovi sistemi alimentati anche ad aria, in cui le energie specifiche in gioco sono molto più vicine, molto prossime a quelle della benzina, per capirsi. Va bene, grazie dottoressa Bodoardo. Grazie a tutti voi, buona serata. E mentre noi siamo qui a chiederci se l'auto elettrica diventerà una realtà di massa, c'è già chi si sta spingendo oltre, pensando a cosa farsene delle batterie delle auto elettriche a fine vita. Sentite qua. Prima qualche centinaio, poi migliaia e infine milioni di batterie provenienti da veicoli elettrici da rottamare potrebbero avere una seconda vita, andando a costituire immense riserve di energia. Ci stanno già pensando due colossi americani della motoristica e dell'elettronica, che hanno stretto un patto per riciclare le batterie allo scopo di migliorare l'efficienza della rete elettrica del paese. Al termine della vita utile a bordo di un'auto elettrica, infatti, le batterie sarebbero ancora in grado di accumulare gran parte della carica originaria, in misura più che adeguata per andare a costituire sistemi di accumulo da accoppiare a impianti a fonti rinnovabili, come eolico e fotovoltaico, e persino per consentire alle industrie di immagazzinare energia quando costa meno, per poi usarla quando costa di più. Bene, questo è tutto. Domani torniamo sulla stretta attualità, sul recepimento della direttiva europea 28/2009 e su come impatterà il settore dei biocarburanti. Buona serata.